cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Stiamo facendo il capitolo quinto, intitolato Il nemico dell'uomo. Cioè stiamo cercando di comprendere chi è Satana alla luce della divina rivelazione. Allora, abbiamo visto già il capitolo che mette in evidenza come Satana odia Dio. Egli è l'avversario di Dio. La stessa parola Satana sta a indicare appunto avversario. Odia contro Dio e per odio contro Dio tenta l'uomo al male, diceva il Catechismo di San Pio X. E l'odio di Satana nei confronti di Dio è nato appunto dal peccato di superbia di Satana stesso, che non ha tollerato di essere una creatura, ma che voleva essere Dio al posto di Dio. Abbiamo già visto tutto questo, adesso stiamo vedendo l'altra caratteristica complementare della natura del perverso, del pervertito, o come lo chiamava Paolo VI, pervertito e pervertitore. Ebbene, cari amici, egli è nemico dell'uomo. Non solo odia Dio, ma per odio contro Dio vuol distruggere l'uomo, è nemico dell'uomo. E abbiamo visto, cari amici, che Satana si presenta nei confronti dell'uomo non come nemico però, ma come suo amico. È lì la pericolosità, che lui si presenta non come tuo nemico, ma come tuo amico, si presenta come il tuo benefattore, si presenta come un falso benefattore. Noi abbiamo visto tutto questo nelle due grandi tentazioni, quella del Genesi, dove appunto il demonio illude Adamo ed Eva dicendo loro che se avessero mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbero diventati come Dio. Quindi promette la divinità e come ricompensa della disobbedienza. E poi anche a Gesù Cristo promette tutti i regni del mondo in ricompensa dell'adorazione. Quindi, come vedete, si presenta come colui che promette, che dona. In realtà ciò che dona Satana è qualcosa di avvelenato. Egli falsamente dona, perché ciò che lui dona è per distruggere, per distruggerti. Vorrei a questo riguardo segnalare un fenomeno abbastanza diffuso, anzi molto diffuso, se è vero che in Italia, per esempio, i maghi sono più numerosi dei sacerdoti. Molti di questi maghi sono dei guaritori. Non mancano alcuni di essi, come dicono studi in questo settore, che promettono guarigioni in cambio di denaro, poi in realtà invocano il maligno. E molte volte sembra davvero che si abbiano dei miglioramenti, poi a questi miglioramenti subentrano i peggioramenti. Può anche essere, cari amici, che Satana, a cui tu ti dedichi, ti dia anche il denaro, ti dia veramente qualcosa, ma lo fa per rubarti l'anima. La sua abilità consiste, abbiamo detto, di comprare la tua anima, che costa il sangue di Cristo, con poche cose. Con un po' di denaro, con un po' di sesso, con un po' di gloria, compra la tua anima eternamente. E tu ti lasci comprare. E quindi pericolosissimo Satana, che si presenta come il nostro falso benefattore, perché con poco compra ciò che di più prezioso vi è in noi, e cioè la nostra anima. E abbiamo visto che Satana questo non lo fa direttamente, cioè non viene lui lì travestito a dirti mi dai la tua anima, ma lo fa attraverso il mondo, attraverso i falsi amici, i falsi benefattori, quelli che ti comprano la tua onestà, comprano la tua rettitudine, ti corrompono. Ecco dunque qual è l'orizzonte dove bisogna stare molto vigilanti. E abbiamo visto, cari amici, come di fronte alla, poi lo vedremo naturalmente in un modo più approfondito, occorre il discernimento nel vedere in tutte le offerte che Satana ci fa, cercando di soddisfare le nostre fami, le fami egoistiche del nostro io. Bisogna smascherare queste offerte, capire queste offerte e rinunciare. Alcuni di voi hanno un po' paura quando parliamo del demonio, ma cari amici, Gesù Cristo ha parlato del demonio, ma ne ha parlato non per far paura, ne ha parlato perché era giunta l'ora in cui Satan veniva scoperto e veniva vinto. Quindi noi con tanta serenità che affrontiamo questi argomenti. Vi dico subito qual è l'arma che vince il demonio. C'è un'arma sola che lo vince. Voi dite il rosario e la preghiera. No. Tutte queste armi sono in funzione di un'altra arma che è quella che conta, e cioè quella della tua decisione. Cioè, quando la Madonna dice affrontate Satana e vincetelo con il rosario in mano, cosa vuol dire? Vuol dire che la forza del rosario ti dà a te la capacità di dire rinuncio di fronte a ciò che Satana ti offre. Per cui non dobbiamo aver paura, cari amici, perché se noi di fronte a ciò che il falso benefattore ci offre, diciamo rinuncio, lui non può fare niente. In poche parole, la preghiera, la penitenza, tutti gli aiuti spirituali, a cosa servono? Servono a far sì che tu davanti all'esca vai da un'altra parte. Fai come quei pesci che si avvicinano all'esca, capiscono che ciò che è appeso all'esca può essere un inganno e che dietro il cibo c'è l'amo. Allora si avvicinano, guardano e poi se ne vanno. Fanno così i pesci intelligenti. Ebbene, caro amico, tu sfuggi a tutte le insidie sataniche di ogni genere e specie, per cui Satana non può farti nulla se appunto dici rinuncio. Rinuncio a ciò che tu mi dai. Non accetto ciò che tu mi dai. Dico no a ciò che tu mi dai. Col rinuncio noi mandiamo Satana con la coda fra le gambe, via. Non può farci nulla. È solo col nostro consenso che noi ci mettiamo nelle sue mani. Ma col diniego, col rinuncio, noi lo sconfiggiamo. Per cui anche la preghiera, la devozione alla Madonna, tutto ciò che ci dà la forza, la grazia per vincere il demonio, ebbene, è orientato a dare appunto la forza, la volontà per dire rinuncio. Quindi questo falso benefattore può comunque ingannarci soltanto col nostro consenso, cioè se noi prendiamo quello che ci dà e se noi mangiamo quello che ci dà. È tutto a dimostrare che da quelle parti, diciamo così, dei paesi del Medio Oriente ci fossero le mele, quindi del paradiso terrestre. Per cui lì bisogna proprio tradurre male. Eva mangiò il male. Bene, cari amici, adesso noi cerchiamo di descrivere sempre più la natura di Satana come nostro nemico. Guardi, questo è un capitolo importantissimo, perché molta gente pensa che sia innocuo, o che sia un diavoletto, o che tutto sommato possa essere un benefattore, ma Satana è nostro nemico, ed è tanto più pericoloso in quanto si presenta sotto le vesti di falso amico. Ecco la sua pericolosità. Chi ci ha svelato Satana come falso amico e ce l'ha descritto come nemico è Gesù Cristo, il quale ha detto che è mentitore e omicida fin dal principio. La parola omicida va intesa in tutto il suo valore, cioè Satana è colui che vuole uccidere l'uomo, ma vuol togliergli la vita, non quella fisica, magari anche quella, ma vuole togliergli la vita spirituale. Lo vuole uccidere spiritualmente, gli vuole dare la morte spirituale, vuole separare da Dio, e quindi separato da Dio l'uomo è come un ramo secco separato dalla vite che secca. Lo vuole separare da Dio. È omicida, vuole distruggere l'uomo. Fra l'altro, qui lo dico in aggiunta, non lo scrivo nel libro, però lo dico a commento, e se voi leggete i messaggi della Madonna di Međugorje, io ho dedicato un capitolo intero del mio libro, perché credo Međugorje a questi messaggi, sono 50 su Satana, voi vedrete che la Madonna descrive il demonio come il falso benefattore che offre per distruggere. Ti offre, ma ciò che ti offre è per distruggerti. Distruggere che cosa? Tutto ciò che di bello e di buono Dio ha creato in te, dice la Regina della Pace. Quindi adesca per distruggere. Distruggere che cosa? La tua vita, soprattutto quella spirituale, tutto ciò che di bello Dio ha creato in te. In lui c'è quindi un'invidia omicida nei confronti dell'uomo. Ecco perché preferisco, cari amici, che qualcuno di voi abbia paura piuttosto che abbia confidenza. Perché se si ha paura, naturalmente, dei nemici, si sta alla larga, se si ha confidenza, li si invita a tavola e poi, naturalmente, ci mettono l'arsenico nel caffè. Però anche la paura deve essere una paura sana, nel senso che è pericoloso. Insomma, se è pericoloso non vado lì a carezzare la vipera io se è pericolosa, no, casomai vado lì col bastone e glielo do sulla testa. Quindi paura nel senso di essere consapevoli della pericolosità, ma serenità assoluta nel senso che se io dico rinuncio lui non può fare nulla, nulla. Ecco perché è bellissima quella invocazione che si fa il giorno del battesimo, poi quando si rinnovano le promesse battesimali sabato santo, no? Quando si dice appunto rinunci a Satana, si dice rinuncio, è il colpo assestato sulla testa del serpente infernale, la parola rinuncio è il colpo mortale assestato sulla testa del serpente infernale. E adesso, cari amici, vediamo il secondo paragrafo del capitolo quinto, l'invidia omicida. Ecco, e qui faccio riferimento, cari amici, alla figura che c'è in copertina. In copertina c'è una figura tratta dalla Cappella Brancacci di Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre. Voi sapete che la Cappella Brancacci, nella chiesa del Carmine di Firenze, è uno dei capolavori della pittura. Era stata commissionata alla bottega di Masolino da Panicale, dove c'era appunto come aiutante, apprendista, diciamo così, il Masaccio, giovanissimo, basti pensare che morì a 28 anni il Masaccio. Allora, in questa Cappella Brancacci, naturalmente ci sono più umani, perché è stata data una bottega, molte pitture sono del Masaccio, anzi la stragrande maggioranza sono del Masaccio, alcune sono invece a due mani, fra quella del Masaccio e quella di Masolino da Panicale. In particolare, a due mani sono proprio la figura di Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre è a due mani, cioè vi ha lavorato sia il padrone, che è Masolino da Panicale, sia il discepolo Masaccio. Mentre sembra che l'altra figura, quella della cacciata del Paradiso Terrestre, sia unicamente dal Masaccio. Ecco, dico queste cose magari se c'è qualche specialista, di arte che vuole naturalmente, anche dal punto di vista esegetico, la perfezione, le ho dette prima, anche se ormai vedo che i grandi libri d'arte, quelli più recenti come quello che ho preso io, mettono in evidenza la grandissima personalità del Masaccio, che ormai domina anche in quelle pitture che non sono del tutto sue. Dunque vediamo, allora, io in copertina ho portato appunto pittura, diciamo così, del Masaccio, Masolino, perché Masolino era il suo maestro di bottega, una figura del peccato originale che è singolare, stranissima, e cioè c'è Adamo, c'è Eva e sopra Eva c'è il serpente che ha la testa di Eva. E quindi questi autori, Masaccio e Masolino da Panicale, in questo quadro derivano la teoria del peccato originale come peccato sessuale, come se Adamo ed Eva avessero voluto dare origine alla vita per decisione propria e non come dono e permissione divina. Questa teoria del peccato originale come peccato sessuale è un'ipotesi portata avanti da alcuni padri della Chiesa, fra cui Sant'Agostino, però non è insegnato ufficialmente dalla Chiesa. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo aspetto, e cioè questa teoria del peccato originale come peccato sessuale, in quanto i due progenitori volevano essere loro procreatori della vita senza la divina permissione. Ebbene, cari amici, questa teoria del peccato originale come peccato sessuale è un'ipotesi di alcuni padri della Chiesa, non è l'insegnamento ufficiale della Chiesa, no? Però, ecco, quello che mi interessa adesso è mostrare appunto questa raffigurazione pittorica del peccato originale, che fra l'altro è la copertina del nostro libro, per vedere la grande abilità di Satana di portare i nostri progenitori da uno stato di felicità a uno stato di infelicità. Infatti voi vedete in queste due pitture, la prima, i progenitori in uno stato di grandissima felicità nel paradiso terrestre, dall'altra vedrete i due progenitori che escono tacciati dal cherubino, dal paradiso terrestre, in una situazione di disperazione. Specialmente il volto di Eva è diventato uno dei volti più significativi della condizione umana di sofferenza e di disperazione dell'uomo dopo il peccato, no? E, appunto, e questo è, e qui è ben raffigurato il falso benefattore. Ad Adamo ed Eva cosa mancava nel paradiso terrestre? Nulla. Eppure lui è riuscito a far balenare ai loro occhi il miraggio della divinità, e poi qual è stata la conseguenza? Che hanno perso tutto, escono disperati. Questa, cari amici, è l'esperienza del peccato come incantesimo satanico che ci illude di possedere la felicità, ma dopo il quale siamo pieni di amarezza, di disperazione e molte volte di disprezzo per noi stessi. Vediamo dunque a pagina 33, leggiamo allora questa pagina, che forse piacerà anche a qualche intenditore di arte. L'arte insuperabile del grande pittore fiorentino Masaccio ha illustrato, con gli affreschi immortali della Cappella Brancacci a Firenze, è una cappella della Chiesa del Carmine di Firenze, la catastrofe esistenziale provocata dalle false promesse del grande ingannatore. Si tratta della più geniale e profonda esegesi del peccato originale che ci abbia mai donato l'arte. In un primo riquadro vedi la coppia dei progenitori nel momento della tentazione e prima del peccato. Adamo ed Eva sono ancora avvolti dallo splendore della creazione originaria, anche se l'ombra del male incomincia a sfiorarli. I loro corpi esprimono tutta la bellezza che in essi ha impresso Dio creatore. Quindi condizione di assoluta felicità. Come sappiamo, Adamo ed Eva nel paradiso terrestre avevano, oltre che il dono della grazia e quindi dell'amicizia con Dio, avevano anche il dono della immortalità, della assenza del dolore, della perfetta armonia fra l'anima e il corpo, cioè della pace interiore e poi della sapienza. Però Eva è già persuasa dalle parole del maligno. Si stringe all'albero della conoscenza del bene e del male come se volesse farlo suo. Ecco, chi ha il mio libro può guardare la copertina mentre la descrivo, no? Eva è già persuasa dalle parole del maligno. Si stringe all'albero della conoscenza del bene e del male come se volesse farlo suo. In alto, sopra di lei, incombe il serpente, che guarda verso Adamo, mascherando la sua testa di rettile dietro quella fascinosa di Eva. La prima donna guarda intensamente Adamo, indicando se stessa. La donna è il frutto proibito che Satana offre all'uomo, disattendendo il comandamento di Dio. Quelli che parlano della teoria del peccato originale come peccato sessuale affermano che appunto Dio aveva almeno in quel momento proibito ai progenitori di essere generatori di vita. Ma sapete, è soltanto un'ipotesi che non ha fondamenti biblici. A noi interessa naturalmente adesso dimostrare un'altra cosa che invece è verità di fede, e cioè come da una condizione di felicità il falso benefattore che voleva darti in dono la divinità in realtà ti ha tolto tutto e soprattutto condannato alla sua stessa condanna se la misericordia di Dio non avesse promesso il Redentore. Dunque, la prima donna guarda intensamente Adamo indicando se stessa. La donna è il frutto proibito che Satana offre all'uomo disattendendo il comandamento di Dio. È un momento cruciale quando l'uomo può verificare se è possibile essere felici nella disubbidienza ai comandamenti del Creatore. E questo è un momento fondamentale. Cioè, noi tutte le volte, prima di peccare, cioè Satana ci propone sempre la felicità come frutto di una disubbidienza ai comandamenti di Dio. Questa è la sua astuzia. Lui ci promette la felicità come se essa fosse frutto della disobbedienza ai comandamenti di Dio. Allora noi nella tentazione purtroppo incominciamo a fare questa valutazione, ma chissà, forse è vero che se faccio questo sarò felice, per questa strada sarò felice, per questa via sarò felice. Quindi, quando l'uomo entra già in questa valutazione è già fritto, perché bisogna respingere molto prima la tentazione, come vedremo. Comunque, la nostra copertina rappresenta proprio Adamo ed Eva in questa situazione, cioè quando l'uomo sta verificando se è possibile essere felice nella disobbedienza ai comandamenti del Creatore. È la prova della verità in cui si può misurare la consistenza delle promesse del grande truffatore. Quindi vediamo se è vero, si dicono Adamo ed Eva, che disubbidendo i comandamenti di Dio alla sua parola, noi saremo anche noi come lui creatori di vita. Hanno voluto provare qual è stata la risposta dell'esperienza. Nel riquadro successivo il masaccio dà la risposta inequivocabile. I progenitori sono raffigurati nell'atto in cui vengono cacciati dal paradiso terrestre. I loro corpi, curvi sotto il peso della colpa, hanno perso lo splendore originario e mostrano la cupezza della carne che ha assorbito il veleno del male, rimanendo assoggettata a malattia, vecchiaia e morte. E questo secondo riquadro è certamente tutto del masaccio. Dipinta sui volti c'è l'infinita disperazione della condizione umana, come ogni uomo la sperimenta venendo al mondo. Cari amici, dunque, prima la felicità dei progenitori nel paradiso terrestre, mentre però stanno già considerando se mangiando di quanto Satana offre, se mangiando il male saranno felici. Risposta: mangiando il male hanno perso tutto, sono disperati. Sui loro volti il masaccio ha dipinto l'infinita disperazione della condizione umana quando noi pecchiamo. Questa esperienza, cari amici, la facciamo noi. Noi quando siamo in pace di Dio, in grazia di Dio, in comunione con Dio, siamo pieni di luce, siamo pieni di gioia, siamo pieni di pace. Quando la tentazione ci assale e noi cominciamo a considerare se forse anche noi facendo o mangiando ciò che Satana ci offre saremo felici, già incominciamo a inquietarci, in noi le fiamme delle passioni incominciano a bruciare, dopodiché pecchiamo. Dopo il peccato abbiamo disgusto di noi stessi, siamo disperati. Ecco, cari amici, il falso benefattore. Ecco l'invidia omicida. La letteratura religiosa è solita raccontare l'esperienza straordinaria di molti uomini che molti uomini fanno dal passaggio dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia, dalla schiavitù del male alla libertà dei figli di Dio. È il cammino della conversione che ha trovato, nelle parabole di Gesù, in modo particolare quella del figlio al prodigo, le più alte e commoventi espressioni. Eppure c'è anche un cammino opposto a quello della conversione, ed è il cammino della perversione, cari amici, che non pochi percorrono e che è utile conoscere a fondo. È il cammino inverso che conduce dal bene al male, dalla gioia alla disperazione, dalla vita alla morte. In nessuna parte, come nel capitolo terzo del Genesi, questo percorso lungo la via della rovina viene descritto con altrettanto realismo ed efficacia. Quindi nelle prime pagine del Genesi noi abbiamo il racconto del cammino della perversione, mentre nella parabola del figlio al prodigo abbiamo il racconto del cammino della conversione. Considera la condizione dei progenitori prima del peccato. Godevano dell'intimità di Dio e di una grande comunione fra loro e la natura. Dio, nel suo amore di padre, aveva elevato l'uomo alla dignità di amico, predestinandolo alla vita eterna. La vita qui sulla terra si sarebbe dovuta svolgere nella più grande pace e serenità, nell'esenzione del dolore, dal male, dall'ignoranza, dalla sofferenza e dalla morte e da tutto ciò che ora affligge la condizione umana. dopo una vita qui sulla terra, ricolma di pace e di gioia, gli uomini sarebbero passati alla beatitudine del cielo. Questo era il progetto di Dio, cari amici. Non era forse felice la condizione di vita in cui Dio aveva posto i progenitori? Eppure essi hanno abboccato l'inganno di Satana, sperando di avere ancora di più. In realtà hanno perduto tutto, precipitando in una condizione di disperazione e nell'incapacità di trovare rimedio. Ascoltando il tentatore, l'uomo si ritrova senza Dio e la sua amicizia, anche se la provvidenza non cessa di vegliare su di lui, cioè perde Dio e la sua amicizia, anche se non bisogna dimenticare che il peccato di Adamo ed Eva non è stato considerato da Dio senza la possibilità del perdono. Infatti, ho visto in alcuni calendari, anche nostri, che anche qui dell'Occidente, che viene riportata questa consuetudine della Chiesa orientale di mettere fra i santi anche Adamo ed Eva. Perché? Perché Adamo ed Eva si sarebbero poi convertiti, quindi è chiaro che questo peccato, questa catastrofe originaria che ha avuto per protagonisti Adamo ed Eva era ancora passibile di conversione. Tuttavia, cari amici, dopo il peccato cosa è successo? Che l'uomo ha perduto tutto, Dio e la sua amicizia, e ha perso tutti i doni ricevuti da Dio, dal dono dell'immortalità a quello della sapienza, dal dono dell'integrità a quello dell'assenza del dolore. Soprattutto l'uomo viene privato della prospettiva della vita eterna dalla quale viene escluso. Ecco, questo, cari amici, è l'opera del falso benefattore, ma che in realtà è omicida fin dal principio. Ora comprendi perché Gesù chiama il diavolo colui che è omicida fin dal principio, Giovanni 8,44. Con grande astuzia il maligno colpisce l'uomo a morte, cercando di vanificare i progetti di misericordia del Creatore. Satana ha promesso all'uomo una libertà e una indipendenza assolute, illudendolo di potersi emancipare dalla dipendenza divina. In realtà lo ha derubato di tutto, anche della sua dignità, rendendolo schiavo del suo regno di morte. Presentarti Dio come tuo nemico e se stesso come tuo amico è la più sfacciata delle sue falsificazioni. Guarda che la mala belva, la mala bestia dove arriva. Lui arriva a presentare Dio come tuo nemico, così fa con Adamo ed Eva. Lui arriva a presentarti Dio come tuo nemico e se stesso come tuo amico. Questa è la più sfacciata delle sue falsificazioni, eppure gli uomini li credono. Infatti, cari amici, quando noi pecchiamo, noi crediamo a Satana che ci propone il male come se fosse un bene per noi e come se fosse la felicità per noi, e ci mostra la croce, la rinuncia, come qualcosa di male. Lui riesce in quest'arte sublime, veramente diabolica, cari amici, di presentarci Dio, che è l'amore, come nostro nemico, e presentarci se stesso come suo amico, come nostro amico. Ebbene, cari amici, la cosa più tremenda è che gli uomini abboccano. Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio, edizioni Sugarco.